comincia, è cominciato il derby. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Come cambia il calcio in pochi minuti? Napoli oggi ha avuto tante occasioni a Marassi contro il Genoa, ma non ha vinto 0-0. La Juve ieri ha rischiato di perdere anche un derby che stava vincendo nel primo tempo, ha avuto da Buffon un contributo decisivo e poi l'ha vinto quasi al 94esimo come un anno fa. La Roma ha perso e tutto questo significa, dando un'occhiata alla classifica, che ad esempio la Juventus è staccata a 9 punti da Fiorentina Inter, 8 dalla Roma, 7 dal Napoli e insomma mancano ancora 27 giornate, i punti per fare una rimonta ci sono. Questa sera c'è un Lazio-Milan interessantissimo che può significare mille cose. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19 in diretta. Diteci che cosa ne pensate, se la Juve è o no in corsa per lo scudetto. Abbiamo anche lanciato il nostro sondaggio su Twitter, @ tutti convocati, andate a cercarlo, votate, che poi man mano aggiorniamo. Carlo Genta qui, c'è già Oscar Damiani al telefono. Ciao Oscar, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Voto al Napoli di questo pomeriggio, 0-0 Marassi contro il Genoa. Ma è stato un bel Napoli, è stata una bellissima partita, francamente, l'ho vista tutta e anche il Genoa ha giocato bene, occasioni, sono mancati solo i gol, francamente, il pareggio lo ritengo abbastanza giusto, anche se il Napoli ha avuto le occasioni più clamorose e francamente forse avrebbe anche potuto vincere la partita, però una bella gara. Sì, poteva vincerla, soprattutto nel secondo tempo di occasioni ne sono arrivate. Io credo poi ci sia anche un margine di fortuna o sfortuna, no Carlo? Quando, sì, quando fai 0-0 così. Napoli ha giocato la sua partita, ha giocato anche oggi da grande squadra. Mi domando, Oscar, è la domenica il weekend dei puniti, ieri Cardi in panchina nell'Inter, oggi Insigne in panchina nel Napoli, è entrato nel secondo tempo e si è visto qualcosa di più. Sì, ha avuto delle occasioni, ma francamente la più clamorosa è stata quella di Hamsik, che un giocatore come lui non può sbagliare un gol da quella posizione, è stato bravo Perin anche in due o tre occasioni, però il Napoli ha un attacco così importante con molti giocatori, se adesso Insigne è stato punito non lo so, magari è stata così una scelta tecnica anche quella dell'allenatore. Ma tu ci credi a queste scelte tecniche casuali? No, non io, lo so io. Ieri io, Mancini rideva quando gli hanno detto hai voluto punire Icardi, lui rideva ma figuratevi. No, ma non te lo dicono mica. Punire Icardi vuol dire punire se stessi se ritiene Icardi più forte degli altri. Ma anche Insigne, Oscar, però, anche Insigne. Sì, ma anche Insigne, ma non è che gli altri giocatori sono inferiori, voglio dire. Poi Insigne è entrato nel secondo tempo. Insomma, io certi magari atteggiamenti li capisco anche perché li ho avuti anch'io da calciatore, quindi secondo me non lasciano strascichi. Poi dopo l'allenatore forse avrà voluto dare anche un segno alla squadra, a Sarri o Mancini. Però Mancini ha anche studiato la partita in un modo molto particolare, senza dare punti di riferimento a Manolas e Rudiger, che senza punti, senza attaccanti, si sono trovati in grande difficoltà ed è stato bravo Mancini a mettere in campo la squadra. Oggi comunque c'erano Martens e Calehon, quindi non è che non ci fossero attaccanti di livello. Poi sì, è entrato, comunque ripeto, una bella partita, poteva finire 2-2, sarebbe stato ancora più bello. Ecco, però possiamo inserire un tema un po' più critico sul Napoli, e cioè noi abbiamo tutti analizzato il fatto che Sarri avesse abolito il turnover, soprattutto in campionato, perché poi in Europa League i cambi c'erano, e in questa striscia di partite, quasi tutte vinte con due pareggi, Carpi e Genoa, due volte ha toccato quell'11 dei miracoli, contro il Carpi e oggi lasciando fuori all'inizio Insigne. Non è che da questo deve ricavare qualche segnale, qualche lezione forse Sarri, Oscar? No, io non credo che un giocatore o due possano cambiare l'esito di una partita. Poi Insigne è entrato a mezz'ora dalla fine, le occasioni le ha avuto anche lui delle possibilità, quindi io non credo a questo, credo nella squadra, non credo nel singolo, e quindi se Sarri e Mancini stesso hanno fatto certe scelte, l'hanno fatte per il bene della squadra, non certo per un discorso solo esclusivamente di turnover. Ma il Napoli è una squadra profonda? O tolti i primi 11-12 non è competitiva per lo scudetto? Speriamo per lo scudetto. No, io credo invece che la forza del Napoli sia proprio quella di avere delle alternative di ottimo livello, come sono gli attaccanti, Gavardini, come dicevamo anche prima, Calehon, Martens, che a volte non giocano perché giocano in segni titolari, quindi Il Napoli deve avere una squadra di 18-20 titolari, ecco, Lopez forse è quello che è entrato un po' meno bene nel finale oggi, si è fatto anche ammonire, ma per il resto questa è una squadra assolutamente attrezzata per vincere, proprio perché ha nella sua squadra almeno 15-18 giocatori di alto livello. Forse davanti anche troppi, Oscar. Sì. Perché, forse anche troppi, perché gestire per quell'attacco, sì, per Sarri può diventare un problema. Sì, è vero, però ci sarà la Coppa, ci sarà la Coppa Italia e ci saranno tante partite, ci saranno gli infortuni, ci saranno le squalifiche. Siamo solo alla decima, mi pare, quindi undicesima, ovvio, sì, sì, siamo all'inizio. Ovvio che adesso siamo un terzo, nemmeno un terzo del campionato, quindi è ovvio che adesso qualcuno si lamenta, ma vedrai che fra 3-4 mesi, in primavera, avere dei cambi all'altezza sarà sicuramente un fatto positivo, anche se oggi può essere per l'allenatore difficile fare delle scelte. Intanto, a proposito di attaccanti, oggi abbiamo salutato il ritorno al gol di Mattia Destro, 750 minuti dopo l'ultima volta. Qualcuno magari può malignare che dall'era paleozoica non si sia riuscito Donadoni a rivitalizzarlo. Comunque, fatto sta, insomma, Bologna oggi ha vinto e ha giocato bene. Non solo lui, 3-0. Cioè, 3-0, sì, gol bellissimo quello di Brienza. Prima di salutare Oscar Demiani, gli giro una domanda che viene da un amico che ha scritto via sms 349-238-6666 su Perin, che oggi abbiamo rivisto il Perin che era arrivato dritto fino alla nazionale. Sottovalutato oppure oggi è stata una giornata di stato di grazia? No, Perin ha avuto un grave infortunio, è ritornato, ha avuto anche momenti un pochino difficili, però oggi ha fatto un'ottima partita, un giocatore, è un portiere molto reattivo, anche a volte magari esagera magari nelle parate, magari nel tuffarsi, potrebbe essere un po' più semplice nelle parate, però francamente oggi mi è piaciuto, è stato bravo, ha fatto le cose che doveva fare nelle azioni pericolose, quindi un portiere giovane ritrovato, importante per il Genoa, anche in futuro per il calcio italiano. Sì, oggi è assolutamente provvidenziale. Grazie a Oscar Damiani. Ciao Oscar. A voi, buona serata, arrivederci. Grazie ad Oscar Damiani. Mi fate sentire Donadoni, microfoni di Sky, l'altro protagonista di giornata. Non so quanto ti mancasse, tornava in panchina dopo le questioni della passata stagione, la retrocessione annunciata del Parma, ma con grande dignità è arrivato e il Bologna ha trovato la vittoria. Sentiamolo, Donadoni. Nella mezzala. Parte dall'Ibrienza, fa un gol impossibile, importante. Con Rizzo non cambia niente con Munier. Rossettini, l'ingresso di Maietta lo sposti a destra, non dai mai segnali di dire mi accontento e mi fermo qui. Ma io penso che questa sia una squadra giovane, come ho detto l'altro giorno, è la seconda squadra in Serie A come gioventù che ha schierato la squadra più giovane dopo l'Empoli, se non sbaglio, quindi come tutti i giovani hanno bisogno di essere incoraggiati, anche soprattutto resi coscienti delle proprie possibilità. Qui ci sono delle possibilità importanti, ci sono delle capacità importanti che però non dipendono solo ed esclusivamente dai piedi, ma anche da un fattore mentale che chiaramente questa classifica non aiuta, e quindi bisogna essere bravi a gestire questi momenti, e questa unione di giovani e meno giovani sicuramente aiuterà tutto l'ambiente, e mi auguro che questo sia solo il preludio a tutto quello che ci aspetta da qui in avanti. Questo Donadoni, io credo che il Bologna abbia fatto la scelta giusta, non a mandare via degli Orossi, per carità. Ma risponde insomma, il campo, Donadoni, no? Sappiamo bene come sono i giocatori. Perfetto. Sappiamo bene come sono i giocatori quando c'è aria di burrasca intorno all'allenatore. Io rimango sempre convinto del fatto che qualcuno tiri i remi in barca aspettando il successore. Questo 3-0 mi sembra possa essere letto in questo modo, anche se deriva da un errore da matita blu di Toloi, difensore dell'Atalanta, che ha regalato il primo gol, che ha aperto la partita per il Bologna. Bologna che in questo momento sarebbe ancora retrocesso virtualmente, sì, 9 sì. punti, terz'ultima posizione, dietro il Verona e il Carpi, che si sono divise un punto per uno in una gara, devo dire, abbastanza malinconica. 8-0-0-24-0-0-24. Adesso andiamo al traffico. Io la ripeto la domanda: la Roma perde, il Napoli si ferma, la Juventus è tornata competitiva per lo scudetto? No. Oppure ha giocato talmente male ieri sera nel secondo tempo che è ancora in crisi? Non lo so, ditemelo. 8-0-0-24-0-0-24. Traffico. Attenzione, non è male. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Allora, primo aggiornamento del nostro sondaggio. La domanda è: dopo la Roma frena anche il Napoli, 0-0 a Marassi, la Juventus è di nuovo in corsa per lo scudetto? Il 56%, stanno votando in tanti su Twitter, chiocciola tutti convocati, il 56% dice no, perché la crisi non è stata risolta. Però sai cosa ti dico? Secondo me anche solo l'idea che metà dei tifosi abbiano il pensiero che la Juve possa rientrare è una notizia. Ieri alle 18, alle 19:40, secondo me questa percentuale era 0%, poi è successo tutto. 47-55, è pazzesco il calcio. Cioè, nel preciso istante in cui Pirlo segnava un gol fondamentale per la Juventus l'anno scorso nel derby, ha segnato in questo caso Quadrado, 47-55 Torino condannato, ma secondo me non è cambiato niente rispetto all'altro ieri o rispetto a ieri a mezzogiorno. No, però il problema è che se davanti non corrono e cominciano a camminare, corre, la Fiorentina è tornata prima in classifica, poi lo spazio per una rimonta può aprirsi. Però lo chiediamo anche a casa, 800 24 00 24. Graziella da Piacenza. Buonasera. Oh, signora Graziella. Buonasera. Che piacere. No, volevo rispondere alla sua domanda e poi invece fare una domanda. Per quanto riguarda, io sono juventina. Per quanto riguarda la Juventus, ho visto le ultime partite. Sassuolo ha fatto un tiro in porta, ha fatto un gol. Però la speranza nostra, vedendo come gioca la Juventus, è quello che avete detto voi, è che prima ha frenato l'Inter, poi ha frenato la Fiorentina, poi ha frenato il Napoli e la Roma. Per cui la speranza è che, cosa sono, 9 punti? 9 punti non sono niente. 9 punti su Inter e Fiorentina. Graziella, però sono tante le squadre che sono davanti, e le squadre competitive che sono davanti. Sì, però poi abbiamo visto che c'è sempre un calo, c'è sempre... Noi abbiamo molta speranza che riacciuffi, se non altro, le prime posizioni. Sì, questo è un discorso diverso. Da gioco non siamo speranzosi. Sì, lo scrive anche un altro amico da Padova, Paolo, dice: Juve competitiva per arrivare in posizione Champions, ma di vincere lo scudetto non se ne parla. Sono d'accordo, per me è così. Ma la penso forse anch'io così. Però oggi la notizia che ci dà il campionato è che è un campionato nuovamente aperto, perché con davanti 28-27 giornate non si può escludere che la Juventus possa fare un filotto. Prego Graziella, avevi una domanda? Sono tanti, ma non sono tanti 9 punti, sono 3 partite. Vedi, ci punti. Crede, poi sotto sotto ci crede. Invece l'altra partita riguarda il signor Tavecchio, che ho avuto la sfortuna di avere sull'aereo di ritorno. Adesso lo facciamo per sentire. Berlino. Sì. Per Berlino. Prego. E è stato molto maleducato per un episodio che è successo sull'aereo. Allora la mia domanda è questa: una presidenza così importante, cos'è successo sull'aereo? No, voglio saperlo, dico, ma forse l'hanno detto anche i giornali, ma io non l'ho letto. Lui era in classe business e aveva la sua valigia, voleva la sua valigia sotto i piedi. La signorina, l'hostess, gli ha detto che non poteva tenerla per una ragione di sicurezza sotto le sue gambe, e allora gliel'ha spostata a metà aereo dove ero io. Allora lui ha preteso che la signora, che era a metà aereo, si alzasse, andasse in business class, e poi non le dico cosa ha detto dietro alla signorina, allo steward, alla compagnia che non faceva più fare voli. Graziella, però a parte la vicenda dell'aereo, cosa ne pensa? Adesso facciamo così, Graziella, aspetti. Mi fate sentire quello che oggi ha pubblicato il Corriere Online, e quindi queste frasi che sono registrate in un colloquio con il direttore di un portale, Soccer Life, che ha incontrato Tavecchio a giugno. Poi vi racconto anche cosa dice Tavecchio, insomma, perché dà una sua spiegazione. Prima sugli ebrei. Tutto il patrimonio di Cecchigori lo rileva un certo Anticolite. Io non ho niente con gli ebrei, se sono il primo a sostenerli tutta la mia vita, ho lavorato, io ero direttore di 28 filiali in Lombardia, c'erano 3 filiali, quelli che andavano a me, c'era il direttore ebreo, però come dice Umberto Eco, meglio tenerli. È meglio tenerli. E poi quella sugli omosessuali, parlando di un ex dirigente della Federcalcio, fortunatamente non si fa il nome, perché insomma a me è un po' di privacy, prego. Ma Ministro, ma è vero che lui è omosessuale? Sì. Sì, sì. Sì. Io non... No, si chiesta a Rosario. No, se mi fai non è. Questo non mi fa. Allora, Tavecchio dice: sono vittima di un ricatto, la conversazione potrebbe essere stata manipolata, questo portale voleva ottenere dei finanziamenti. Massimiliano Giacomini, che è l'autore di questa intervista, risponde: Tavecchio mente sapendo di farlo, ho rinunciato io ai soldi di quel processo, di quel progetto, l'intercettazione, la registrazione esce adesso perché non mi ero accorto del contenuto. Allora, Graziella, e poi se volete il dibattito è aperto. Graziella. E queste parole le ha dette? Era la voce della. Mi sembra del proprio presidente. Di sì, eh? Esatto, per cui le ha dette queste parole che sono gravi, secondo me. È come quando qualcuno, un commissario della nazionale inglese, che aveva detto che i ragazzi disabili erano così perché erano stati puniti. Aveva detto una cosa grave anche lui allora, ma sono cose che hanno detto... Vabbè, insomma, Graziella, ti iscrivi al partito di chi dice che si deve dimettere. Una partita, sì, fa un popolo del partito che si deve dimettere. Una presenza così importante, ma perché non si è mai pensato di darla a una persona onesta, competente come Gianni Rivera? È la mia domanda. Ma guardi, Gianni Rivera ha fatto fatica a farsi riconoscere dal Milan per mille motivi. Poi Gianni Rivera ha anche fatto una carriera post-calcio diversa. Ha fatto il dirigente, poi ha fatto il politico. Non necessariamente è la persona giusta, non lo so, però può essere un tema. Grazie. 800 24 00 24. Tanto c'è un amico che dice: 4 giorni fa, dopo la sconfitta di Sassuolo, la Juve era ufficialmente fuori dalla lotta a scudetto, ora è già tornata in corsa. Noi non stiamo dicendo questo, però ve lo stiamo chiedendo semplicemente perché davanti in questo weekend c'erano le due squadre favorite per la corsa a scudetto, Roma e Napoli. Non giriamoci intorno, che dovevano dare delle risposte. La Roma ha perso. Beh, Napoli le ha date. E, dai, il Napoli comunque non è riuscito ad approfittarne. Però ha giocato una buona partita. Insomma, Genova non è nemmeno un campo semplice. Sinceramente, non capisco la mossa di Sarri, in tutta onestà, di tenere fuori Insigne, che è al momento il miglior giocatore italiano e continuo a pensarlo. Non so se sia stato qualcosa di punitivo, ma ne ha tutta l'aria. Ha avuto un sacco di occasioni da gol. Perin, con il suo stile un po' strambo, le ha sventate tutte. Amsic si è mangiato invece un gol già fatto. Insomma, il Napoli oggi non ha dato segni di cedimento. Quanto alla Roma invece, meglio parlarne, forse sì, perché se vuoi vincere lo scudetto è chiaro, l'Inter è una squadra molto equilibrata, molto solida, molto tosta. Quando va in vantaggio è dura riprenderla. Però è mancata un po' di cattiveria. Sta per iniziare a parlare su Sky Gasperini. C'è Stefano da Latina, 800 24 00 24. Sentiamo la prima battuta di Gasperini. La partita e il Genoa ha dato un segnale importante probabilmente a se stesso, perché poteva e doveva essere una partita che avrebbe dato la dimensione di questa squadra, ed è stata una partita assolutamente convincente. Credo di sì, abbiamo fatto la nostra gara giocando e cercando di ribattere colpo su colpo all'azione del Napoli. Credo che ci siamo riusciti. Chiaro che il Napoli ha tirato un po' più di noi, ma anche noi abbiamo avuto delle buone opportunità e soprattutto abbiamo giocato, credo sia stata una partita molto aperta. Sì, è una partita condizionata anche dagli Stefano Latina, dai Stefano. Tre forzati. Sì, buonasera e grazie per la convocazione. Prego. Io sono tifoso della Juventus e non credo che la Juve riuscirà a tornare in lotta per lo scudetto. Credo che la società abbia messo in conto quest'anno di impostare una data di transizione comprando giocatori giovanissimi, ma credo che abbia messo le basi, delle ottime basi per il futuro. E non c'è niente di male, no, Stefano? Non c'è niente di male, no? Credo che sia stato un ragionamento intelligente, assolutamente sì, ragionamento intelligente. Io però sull'annata di transizione qualche dubbio ce l'ho, che Agnelli e Marotta siano d'accordo. Però prego, Stefano. Ma non, è chiaro che preferirebbero vincere, però è chiaro che sostituendo, cambiando così tanto, inserendo tanti giovani, probabilmente abbiano messo in conto. Penso che la Juve possa comunque arrivare fra le prime posizioni. Non credo che tutte riescano a mantenere questo ritmo da qui alla fine del campionato, la Lazio, il Napoli, l'Inter, la Roma, insomma qualcuna cederà e la Juve il posto di qualcuna di queste prenderà. Che le raggiunga tutte è difficile, però arrivare fra i primi tre e raggiungere i quarti credo che sia, possa essere considerato un risultato positivo per la Juve per lanciarsi per il futuro, insomma. E poi è chiaro che nella speranza di ogni juventino c'è la vittoria, insomma, però verosimilmente arrivare fra i primi tre sarebbe un successo. Grazie Stefano. Poi adesso, dopo la pausa, apriamo il tema sulla Juve, lo facciamo con Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport, perché io ho anche l'impressione che la vittoria di ieri in realtà non abbia risolto il nodo del giudizio su Allegri, che, come scrive oggi Tutto Sport, resta sotto esame e col sospetto a Torino da parte di qualcuno punti, che non sia l'uomo giusto. Però sono il tema punti, noi l'abbiamo lanciato. 800 24 00 24, torniamo tra un paio di minuti. Secondo te, se Tavecchio fosse al muretto della Mercedes, no? Sì. Tra Hamilton che è nero e Rosberg che casualmente è bianco, chi preferirebbe? Quale ordine di scuderia impartirebbe? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Tutti Convocati. Quando è notte il lupo grida all'ombra della luna, la danza delle streghe non porta mai fortuna. Prova Pogba, gol destro, è un gol fantastico, vantaggio Juventus, è tornato Paul Pogba. Montate stelle, anime sorelle. Palla che gira, trova il muro, ancora Bovo, gol meraviglioso, pareggio pazzesco di Cesare Bovo. Le streghe, signore di paura. Occhio Alessandro, poi Cuadrado, è il gol del 2-1 al 94esimo, come un anno fa, da Pirlo a Cuadrado. Incazzati nei prova, sicuro. Scusate il termine, ma ci sta tutto. Questa partita ci dà ancora la carica, la forza per andare la nostra lotta per lo scudetto. Ci credo, fino alla fine ci credo e dobbiamo affrontare tutte le partite come se fosse una finale. Fa parte di una cultura italiana, è quella di cambiare allenatore. Questa sarebbe una situazione che devi arrivare a utilizzare proprio quando siamo davanti al dramma. Bisogna ritrovare il grande senso di appartenenza che forse in alcuni momenti si è perso, poi il resto viene da solo. Potrebbe rappresentare una svolta nella vostra stagione? Rappresenta una vittoria importante, un derby che ha per noi un grande valore sia per la classifica, per la nostra cittadina, e poi giocare contro il Torino non è mai semplice. Credo che si stia creando un gruppo importante, ci vuole un po' di pazienza purtroppo, anche un pizzico di fortuna, perché fare il gol a 30 secondi alla fine non capita sempre. Poi la parola svolta, Massimiliano Allegri l'ha scritta su Twitter e partiamo da qui. 800 24 00 24, saluto Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao direttore. Buonasera a tutti voi. La Juventus più che in corsa per lo scudetto, a me sembra Marquez, cioè può sbattere fuori pista qualcuno ma non è competitiva per il titolo quest'anno. Che bella immagine. Ma guarda, io credo che si è parlato troppe volte quest'anno di svolta e poi la svolta vera, la Juventus non è ancora riuscita a imprimerla alla sua stagione. Ieri ha vinto un derby con caparbietà, con rabbia, con orgoglio, ma sicuramente non attraverso il gioco. E io credo che una squadra che non ha gioco poi alla lunga vai. Allegri si è dato ancora un po' di tempo per ritrovare il gioco. Io non so se questo tempo sarà sufficiente per riuscire a rimettere in piedi una stagione che oggettivamente per adesso, almeno sul fronte del campionato, è sicuramente compromessa. Su quello della Champions, da italiano mi auguro di no, però c'è un test tra qualche giorno in Germania, in Mönchengladbach, che può dire qualcosa di più sulla stagione europea della Juventus. Sì, test assolutamente da non sottovalutare. Oggi Tutto Sport scrive, dopo aver raccontato della vittoria in extremis della Juventus: attenzione però, Allegri resta sotto esame. Io sono partito dalla parola svolta perché c'è questa distanza tra quest'idea della svolta e quello che ha detto in maniera anche brutale Buffon nei giorni scorsi. È da provinciali pensare che una o due vittorie possono risolvere il problema. Qui bisogna fare un filotto di 9-10 partite consecutive e la Juve in questo momento è lontanissima. Allora la domanda è, perché qualcuno l'ha anche scritto in maniera più o meno esplicita, è Allegri l'uomo giusto? O oggi a Torino ancora si discute di questo malgrado la vittoria ieri sera nel derby, direttore? Caduto? È caduto? Beh, allora adesso cerchiamo di riagganciare. Ci sono. Ah no, eccolo qui. È l'uomo giusto per costruire perché in questo caso non si tratta di ristrutturare una casa, si tratta di farne una nuova, no? La Juventus ha cambiato praticamente tutto. Guarda, io sono estremamente sincero nella valutazione che ho fatto l'anno scorso e che faccio quest'anno di Allegri. Allegri non credo che sia un cretino, non penso neanche che sia un mago come è stato dipinto l'anno scorso, penso che sia un ottimo gestore di uomini e non sia un ottimo allenatore. Forse in questo momento la Juventus, visto che è da ricostruire, ha più bisogno di un allenatore, ha più bisogno di un Conte, non di Conte, di un Conte. Però comunque Allegri è un allenatore che ha vinto due scudetti, è arrivato a una finale di Champions League, quindi non penso che sia uno sprovveduto. Forse in questo momento la Juventus ha bisogno di una figura, o avrebbe bisogno di una figura diversa. Detto questo, io non credo che ci siano i presupposti in questo momento per cambiare guida tecnica, anche perché non credo che ci sia in giro in questo momento nulla di meglio o che possa imprimere, ritorniamo alla solita parola, una svolta. Quindi non ti piace l'idea di Lippi traghettatore? No, traghettatore a questo livello non esistono. Piuttosto non trovi che sia pericoloso continuare a rimanere ancorati al recente passato? Non trovi che sia pericoloso il lamento delle vedove di Pirlo, Tevez, Vidal in questo caso? Anche di Conte? Certamente di Conte da lungo tempo. Non trovi che tutto questo possa essere pericoloso, possa essere un intralcio, possa essere fastidioso, possa essere controproducente? Allora ascolta, che sia fastidioso per i protagonisti attuali me lo immagino, che sia controproducente non lo so, che sia però un esercizio mentale fatto da un tifoso o da un critico abbastanza scontato, ti dico anche sì, perché una squadra che per 3 anni, 4 anni ha stravinto tutto ed era fondata su determinati giocatori, tolti questi giocatori non funziona così, è umano che tu mi venga a dire io ricordo la Juve di Pirlo, di Tevez e di Vidal, è umanissimo, e io penso che qualsiasi professionista, parlo di Allegri ma parlo anche della dirigenza della Juventus, quando ha deciso di cambiare abbia messo in conto il fatto che se le cose non fossero funzionate subito dall'inizio ci sarebbe poi stato il ritornello, il refrain di si sarebbe tornato a parlare di Conte. Puntuale. Aspettate, vi fermo un secondo perché c'è Pepe Reina, microfono di Sky, gli stanno facendo vedere l'episodio dell'allacciamento tra Burdisso e Higuaín in area di rigore, uno degli episodi di cui si discute in questo Genoa-Napoli. Lo vedo perplesso, a grottare le ciglia, vediamo se riusciamo a cogliere la sua risposta. Chiaro, a me sembra rigore, però non devo ammettere che non mi è tutto molto chiaro. Va bene, siccome avere uniformità di interpretazione tra attaccante e difensore è rarissimo, io me la prendo questa e dico che quindi propendiamo per il rigore, più sì che quindi, no. Quindi aspettiamo se lo dice Reina. No, volevo non lo sapere, dice, però vi dico che dalla faccia era abbastanza poco convinto. Ultima domanda per Vittorio Reggia è questa, cioè tornando ad Allegri. Ieri Allegri alla fine ha cercato di giocarsela con la sua Juventus, cioè quella che forse aveva in mente anche quest'estate. Ha stupito tutti, fuori Cuadrado, Hernanes trequartista. Magari a qualcuno maligno poteva venire in mente che volesse anche togliersi un sassolino dalla scarpa, che poi quel trequartista doveva essere non Hernanes ma uno diverso. Amsic, e torniamo sempre a quei discorsi là, direttore. Amsic e dintorni. Torniamo assolutamente. Noi siamo maligni, ma fate bene, perché insomma bisogna anche essere un po' maligni, non troppo. Io credo che ieri Allegri l'abbia giocata come pensava di giocarla. Adesso io non penso troppo a fare della dietrologia, a togliersi i sassolini dalla scarpa. Poi una volta che i sassolini uno se li è tolti, bisognerebbe che rilanciasse anche con la fionda, non con le mani. Per cui io sono dell'idea che Allegri l'ha giocata come pensava di giocarla. È chiaro che probabilmente se al posto di Hernanes ci fosse stato un nome a caso, Oscar, forse non solo ieri ma anche in altre partite la Juventus dovrebbe giocare in maniera diversa. No, col senno di poi è facilissimo ragionare. E se al centro dell'attacco ci fosse stato Higuaín, come pare, non so, risulterà anche a te, no? Allegri voleva Higuaín. Sì, vabbè. Ho capito, quello è il capitolo sogni. Anch'io, capitolo sogni, ma è capitolo mercato. Anche a me piacerebbe uscire una sera con Monica Bellucci, però quello che piace a me magari non piace alla Bellucci, per cui io me ne sto poi in redazione. Sì, però Higuaín, cioè la Juventus aveva molti soldi nel borsellino. quindi sì, però ne costava più di 90. Galeone l'altro giorno ha detto, io l'ho detto a Max, l'ha detto a questi microfoni, l'ho detto a Max, prendi Higuain invece di andare a prendere Mandzukic, Dybala magari, eccetera eccetera, ne prendi uno, ma che sia uno che sposta. Sì, però ascoltami, bisogna anche che ci sia un giocatore disposto a venire, e io non so quanto Higuain fosse disposto a venire a Torino proprio per il legame che ha con Napoli, e un presidente disposto a cedere a scucire, sì, è un altro disposto a scucire. Io resto fermo sul numero 10 che non fosse Hernanes, e che per due mesi abbiamo visto questo ping pong sul profilo del giocatore che serviva, e che secondo me è la radice di tutta, o almeno di parte della spiegazione di questa stagione della Juventus. Grazie direttore. Ciao direttore. Grazie a voi. Ciao. Grazie Vittorio Reggia. Complimenti, oh, Arrigo, complimenti. Il solito intruso. No, ma almeno gli facciamo commentare il derby, la vittoria della Juventus, le tattiche di Allegri. Scusa, sì. Qualcuno in sottovoce ha detto il solito intruso. No, è graditissimo. No, invece. Allora, ho sentito male. No, Allegri ha vinto, Allegri ha vinto il derby. Ha vinto. Sì, molto... Hai visto che mosse, no? Molto probabilmente è il momento del coglione al capitatot. No, ma questo l'hai già detto per Marquez e Rossi. Dai, di qualcosa di beh, più. Io intendevo dire, sì, che capita a tutti di fare una cosa che non è nella propria natura. Cioè? Anche alle melanzane, cioè? E cioè di azzeccare una mossa. Oh. E se Dybala, sì, Allegri inserisse a tre minuti dalla fine Alexandro, lui va sulla, sì, faccia, e va al cross sul quale Cuadrado, sì, segna visto, un pallone sporco, sì, molto sporco. Quindi cosa c'è? Cioè, è stato fortunato, non lo so. È stato fortunato, non lo so. Io non mi permetterei mai di dire una cosa simile, sì. E poi le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue. A sì, me Zenta, per esempio, piazzano le sanissime melanzane Bicazzute, sì, di Fusignano, bravo Carlo, di cui siamo ghiottissimi, sì, esatto, ghiottissimi, sono meravigliose. Lei Capuano invece preferisce i nozivissimi salumi e le carni, ma no, rosse, non è vero, tanto fanno male, cancerogeni. Insomma, cioè, mi pare capire, Arrigo, mi pare capire che secondo te, insomma, la vittoria non è molto convincente. Cioè, non mi permetterei, Capuano, non mi permetterei, no, mai di dire che la Juve consamente o, sì, inconsamente ha giocato senza coraggio in maniera stanziale. Dico semplicemente che per vincere, sì, occorre pazienza e buona, sì, cuore. Lo dicevano anche di, ecco, lui, Allegri, di te, Arrigo. Sì. Allegri non ha avuto, no, né hoc, no, né pazienza. No, ma basta così, basta così, grazie. Grazie Arrigo, alla prossima. Prima, sì, di salutarvi, avrei, sì, piacere di dire un mio pensiero sul presidente Tavecchio. No, però, peraltro siamo anche in ritardo. Che poi, scusami, che poi Tavecchio non è neanche negro. E non è neppure ebreo, non possiamo tagliarlo. No. E non è neanche omosessuale. Il telefono. Toglietelo. Grazie Arrigo. Questo era il nostro Andro Mercù. C'è Michele Dalai già pronto per parlare dell'Inter. Traffico, 30 secondi, torniamo. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Convocati. Addirittura commosso. No, avevo le lacrime perché c'era un po' d'aria e mi dava fastidio gli occhi. Non commosso. Dalla stanchezza, sì. Commosso dalla stanchezza, sì. Ovviamente non abbiamo dimenticato l'Inter, che ieri ha battuto la Roma, è prima in classifica insieme alla Fiorentina, è pienamente in corsa per lo scudetto, possiamo dirlo. Esame di maturità ieri sera passato. Esame per di maturità superato. Laurea arriva a maggio. Noi però abbiamo convocato l'autore di questo tweet ieri prima della partita. Nagatomo, D'Ambrosio e Icardi fuori, si chiama Mossa del Pazzo, e se la vinci ti ride anche il culo. Hashtag Mancini. Michele Dalai, ciao, buonasera. Ciao Michi. Ciao, buonasera, eccomi. Quindi, sì, no, visto che stiamo parlando la fortuna degli allenatori, parlavamo prima di Allegri che mette Alessandro e questo gli tira fuori l'assist vincente, non lo so di cosa. Guarda, come la definiamo? Io l'ho vista anche addirittura in un altro modo, c'era un bellissimo film, Caccia Ottobre Rosso, sì, c'era la mossa di Ivan il Pazzo, no? Quella per sparigliare un po' le carte. La partita, per come l'avevano annunciata, era quasi scritta, no? Tanto a poco per la Roma, comunque una partita complicata. L'Inter subisce pochi gol, ma si pensava a tutto un altro primo tempo. Effettivamente Mancini dal cilindro ha tirato fuori i due esterni che non la vedevano mai e che non giocavano da mesi, li ha messi in campo, e questi hanno giocato una partita per i loro standard formidabile, in particolare Nagatomo, che è riuscito in qualche modo, ma anche bene direi, a contenere Gervinho sui cambi di fascia, anche Salah. E poi Icardi fuori, che invece è una cosa, riprendendo il sommo Arrigo Sacchi, tutte e tre le componenti del sì, buon allenatore ieri. Cambio punitivo. Chiaramente punitivo. Oh, vedo che Mancini ha convinto tutti ieri con la spiegazione. Sì. Allora, a me viene in mente, Giovanni, scusa, tu posso dire una cosa? Perché adesso arrivano tutti i messaggi degli interisti dicendo sì, che sull'Inter facciamo ironia. Noi in realtà adesso analizziamo seriamente l'Inter. Vero, facciamo ironia. Però questa cosa di Icardi, così come quella di Insigne, poi sentiremo esatto, Sarri dopo la spiegazione che dà. È stato delle esclusioni punitive. No, mi veniva in mente, ti ricordi tu te lo ricorderai Giovanni, quel giorno che penso fosse Hector Cooper che rispolverò Michele Serena proprio contro la Roma sulla sinistra e l'Inter giocò una grande partita, Serena che era sparito da due anni. Michele? Sì, sì, Michele. Ci sono quei giocatori. Te lo ricordi? Ma allora, poi il vero dilemma è se il giocatore che sta di giocare quel pomeriggio viene travolto da crisi di panico e ce ne conosciamo tanti, oppure gioca senza coscienza come hanno fatto loro ieri molto bene. Ma sai, ironia sull'Inter, io da interista patologicamente convinto di alcune cose, ieri ho visto per la prima volta, e lo dico, io non sono un manciniano convinto, ho visto la mano di un allenatore che dal punto di vista almeno della gestione del gruppo e della squadra ha fatto una gran cosa. Poteva andargli malissimo, lui ha giocato tutto su come ha sistemato in campo con la squadra. Lui è convinto di Medel da un anno e mezzo, è il suo giocatore, il suo allenatore in campo, è quello che gli risolve tanti problemi, e in questa stagione sta avendo ragione, a parte il gol di ieri in cui Szczęsny fa il suo, però ha giocato una partita straordinaria. Finché ha giocato l'Inter, quando è entrato con Dogbia purtroppo ha perso 20 metri di campo e ha sofferto moltissimo. Medel è un giocatore che fa un lavoro sporco, oscuro, cattivo, ma fondamentale per quella squadra. Poi ho sentito Garcia alla fine, nervosissimo, che diceva che vorrebbe giocarle tutte così. Ma anch'io vorrei che l'Inter le giocasse tutte così, sinceramente. Cioè, sì, sta diventando non un problema il fatto di aver segnato 11 gol in 11 partite, Inter che è uno dei peggiori attacchi, però a questo punto... In 7 partite non ha preso gol. Sta diventando una virtù, cioè sta diventando un marco di fabbrica, si vincono anche così gli scudetti, lo spiegava Capello qualche settimana fa. Oggi io so che gli interisti se la sono presa per un titolo, non mi ricordo di che giornale, che scriveva a portieri invertiti avrebbe vinto nettamente... la Roma, lo scriveva Gianni Mura su Repubblica. Mia nonna con le ruote. Bravo, lo stavo dicendo io. Lo stavo dicendo io, Michele. Se aveva le ruote, era una carriola. Cioè, esatto. Quindi i portieri invertiti, poi avrei voluto anche portieri invertiti, però Inter Fiorentina. Invece non è così. Andanovic è il portiere dell'Inter, capace di delizie come quelle di ieri sera. Tra l'altro, Andanovic è un masochista spaventoso perché quelle quattro parate in un secondo le fa su una sua respinta, la solita respinta di Andanovic. Sì, sì, sì. Andanovic la rimette in bocca a chiunque. Ieri D'Ambrosio, nella sua innocenza a fine partita, ha detto Andanovic ci supplica di andare sulle ribattute dei suoi tiri. Vuol dire che tecnicamente c'è un problema, però ieri ha fatto una partita eccellente. L'Inter non deve giocarsela da favorita, questo mi sembra molto chiaro. Dopo 5 vittorie di fila un po' sparagnine, un po' fortunose, ha giocato la partita che ha giocato con la Fiorentina. Però se sei in testa è duro fare l'underdog, amici. Hai ragione, però è anche vero che finché tutti dicono che Napoli e Roma fanno un altro sport, un altro campionato, noi brutti, sporchi e cattivi stiamo lì. Sì, però c'è anche molto demerito della Roma nella partita di ieri sera. Garcia può dire quello che vuole, perché se vuoi vincere lo scudetto una partita così non la perdi, la pareggi, la impatti. Garcia poi deve spiegare a tutti perché toglie Dzeko a 20 minuti dalla fine con due esterni che crossano e con l'Inter che è molto stanca. Sai, alla fine se basta mettere Jovetic falso 9 per mandare in casino totale la Roma, allora il gioco è facile, no? Allora vuol dire che facile, c'è anche qualche demerito dall'altra parte, perché o sei travolgente perché giochi in un certo modo, oppure non cadi un ragno dal buco se solo ti cambiano le carte in tavola. Sì, a me la cosa che stupisce della Roma è che con Dzeko in campo faccia fatica a segnare molto più che senza Dzeko. Questa è una cosa sorprendente invece, perché? Secondo me, perché Dzeko è un giocatore che i gol gli è sempre fatti, uno ma stravolge il suo modo di giocare, che ha il killer instinct e non può fare quello che ha fatto ieri sera, ad esempio nell'occasione in cui D'Ambrosio poi l'ha murato a porta praticamente vuota. E che è andato molle. Beh, lui ha esitato, ha tirato, è stato mollissimo, ma sai, lì c'è un problema. Ieri sera sentivo qualcuno molto più saggio di me dire che Dzeko ricorda un po' il Mario Gomez di tante partite con la Fiorentina, si sbatte, si danna, cerca di aiutare, ma giochi in una squadra che non è costruita per farlo giocare, e questo è un problema dell'allenatore, così come Icardi è un problema per Mancini, eh? È lo stesso problema identico. Beh, insomma, relativamente, Michele, perché l'Inter è costruita per Icardi, può essere, può fornire palle gol a Icardi, l'anno scorso Icardi e l'anno prima ha fatto una montagna di gol. Il problema è della Roma, cioè la Roma non è abituata a giocare con un centravanti, giochi in un altro modo ed è tornata in testa alla classifica giocando in un altro modo. Esatto, perché ha due esterni che sono anche due terminali del gioco e quindi non hanno nessuna intenzione di giocare tanti palloni per un centravanti grande grosso, pur tecnico come quello lì. Però insomma io oggi lascerei i problemi della Roma alla Roma. Quello che ho visto ieri è una squadra, l'Inter è una squadra che può fare molto meglio, che ieri ha buttato, è vero che segna poco, avrete visto ieri la follia di quei due contropiedi con Perisic senza più ossigeno, regalare il pallone a casa, e quelli sono partite che finiscono 2-0, 3-0 se la imbrocchi. Poi meritata o demeritata che sia, però a volte si gioca anche per il contropiede. Ecco, un po' più di cattiveria e quella squadra lì effettivamente rischia di arrivare in fondo. Sì, io continuo a pensare che l'orizzonte dell'Inter almeno oggi non sia lo scudetto, però per coerenza, in un fine settimana in cui le due candidate, Napoli e Roma, per motivi diversi hanno bucato l'esame di maturità, se stiamo chiedendo se la Juventus può considerarsi di nuovo in corsa per lo scudetto, a maggior ragione i 24 punti e il primato dell'Inter, se vogliamo anche della Fiorentina, ma diciamo dell'Inter, limitiamoci qui, possono significare che si può correre fino in fondo per lo scudetto. Grazie a Michele Dalai. Ciao Michele. Ma grazie a voi. Ciao. 800 24 00 24. Noi adesso ci fermiamo, c'è il GR, poi torniamo, c'è Pierluigi Pardo, ci sono le parole di Sarri, c'è un grande ospite anche per cominciare a parlare di Lazio-Milan di questa sera, e io non so cosa ne pensate di Mihajlovic, che ha fatto l'arrabbiato e l'offeso ieri, ma scrive la Gazzetta dello Sport, attenzione perché lo spogliatoio è fortemente irritato per alcune sue parole. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Tutti convocati. Visto dal campo e visto da qui, questo è rigore e espulsione. Se fischia rigore deve fischiare anche l'espulsione, perché Higuain è in netto vantaggio, è solo davanti alla porta, quindi c'era anche l'espulsione. Però al di là di questo, poi considerazione globale che noi siamo la squadra che ha giocato più palloni in aria di tutto il campionato e siamo una delle poche non ha mai avuto un rigore a favore, quindi questa è una stranezza dei numeri e speriamo che poi i numeri si riequilibrino a breve tempo. Io diffido sempre degli allenatori che davanti a un torto arbitrale citano statistiche e poi dicono beh, speriamo che a breve i conti tornino pari. È un, non so, come chiedere nelle prossime domeniche che arrivi il rigore per il Napoli. 800 24 00 24. Sai come si dice napoletano, no? Chiagnefotti. Pier, Chiagnefotti. Sei preparato? Come va? Come va, ragazzi? Bene. Chiagnefotti, oppure vorrebbe, insomma, sicuramente Chiagne, Sarri? Sì. Però, beh, insomma, è un passo indietro dal punto di vista del risultato. Si può vincere sempre, però, non si può vincere sempre, ma poi è più grave, allora domandiamo, è più grave l'errore di Doveri o quello di Amsin che divora un gol al limite dell'area piccola? No, io adesso volevo già uscire dalla polemica sul rigore poi ne parliamo, però c'è passato. Ma era o no rigore? Dai, così ti tiriamo dentro. Volevo uscire, eccolo lì. Rigore è quando l'arbitro fischia. Sì. Rigore è quando l'arbitro fischia. No, si poteva dare, ma non mi sembra un episodio clamoroso, no. Tra l'altro, non era certamente da rigore espulsione, perché insomma non basta uno sia lì più o meno davanti al portiere se poi non è in possesso di pallone, per delineare la chiara occasione da gol. E quindi insomma, tra l'altro io ho fatto una breve ricerca adesso durante il GR sulla storia della moviola del Napoli di questa stagione. Insomma, Sarri può anche non lamentarsi. Io ricordo un fallo di mano di Higuaín negli ultimi minuti di Chievo-Napoli, ad esempio. Certo. È vero che Empoli-Napoli sicuramente il gol dell'Empoli andava annullato per un fallo di mano di Saponara, però insomma mi sembra che siamo pari. Invece Sarri ha aperto questo tema qui arbitrale, e dobbiamo tenerne conto, Pier, anche se non ti piace. Dobbiamo tenerne conto. Sta diventando allenatore da grande squadra. Mi pare evidente. Te la cavi così, vecchia volta. Lo dico in senso buono, e veramente. Io, Sarri, ho scritto anche in settimana la mia stima totale. È chiaro che questa uscita è un'uscita che rientra nell'ambito di quelli che il signor Genta chiama mind games, no? Alla Mancini, insomma. Sì, alla Mancini, alla Mourinho. Anche alla Benitez, che per un anno è andato avanti con il ci poteva stare anche questo rigore, però da oggi registriamo. No, il rigore ci poteva stare, siamo seri. 8-0-0 24-0-0 24. Tu sei a Roma per Lazio-Milan. Adesso, dopo il traffico, ne parliamo con un allenatore importante, che è stato importante e che ci aiuterà a disegnare quello e anche lo scenario di questo campionato, che noi stiamo ribattezzando come aperto anche alla Juve, visto che le due grandi favorite hanno mancato la prova della maturità. Poi ci dirai cosa ne pensi. Ferdinando da Firenze. Buonasera. Grazie di avermi richiamato. Io volevo fare due considerazioni, una sulla Fiorentina e una sul signor Tavecchio. Sì. Per quanto riguarda la Fiorentina, io osservo da anni, non solamente adesso, che in generale i giornalisti non sono, diciamo, non teneri, non hanno l'attenzione sulla Fiorentina. È una squadra che quest'anno è prima in classifica, però ecco, questa, se la posizione fosse stata occupata da qualche altra squadra, probabilmente i giornalisti ne avrebbero parlato di più, e questo dispiace un po'. Io non sono un tifoso sfegatato, però sono contento quando la Fiorentina vince, essendo di Firenze, e mi piace quando invece non viene apprezzata per quello che è. Sì, io non capisco questo accerchiamento che percepiscono i tifosi della Fiorentina. Tra l'altro mi pare, Ferdinando, che la Fiorentina non goda di pessima stampa in assoluto. Io vi do uno scoop in esclusiva, diciamo che... Io posso dire anche questo. Aspettate, uno per volta. Scoop, Piero. Io e Fernando, io ho mandato un messaggio alle 14:10 alla AC Fiorentina, per chiedere se domani mi mandano qualcuno a Tiki-Taka. Viene della Valle. No, non lo so, spero. Questa è un'altra radio. Cioè, non hai risposta, vuoi dire questo? No, ma per carità, non voglio dire. Arriverà. Ci sono mille cose da incastrare, non sto dicendo questo. Però ecco, io oggi ho chiamato Inter e Fiorentina, ho chiamato tutte e due, voglio dire, ci sono mille cose da incastrare, ma non c'è nessun accerchiamento mediatico. Cioè, quel discorso che io ho fatto mille volte, perché mi piace essere onesto, e credo che nei giornali nazionali, nelle televisioni nazionali e nella stampa nazionale, aspetta Pier, perché ti si sente tra il male e il malissimo. Adesso proviamo a riagganciarti. Mustafa dalla provincia di Cuneo. Si sente male, Pier. Mustafa. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, grazie per avermi richiamato. Io sono un tifoso juventino. Cioè, per la domanda se la Juve quest'anno vincerà il campionato o no, dipende tutto. No, sei di nuovo in corsa, non se vincerà o no. È in corsa, però dipende tutto dalla Juve, perché quest'anno, cioè, vediamo solo una grande confusione nel campo, nessun timbro di gioco, non ha un'identità la Juve quest'anno, mi dispiace. Sì, a mia moglie, che non capisce niente di calcio. Due anni fa mi diceva che Mustafa, sicuro che mia moglie guardava le partite con me e mi diceva: ma sono bravi a tolere le bravi sti ragazzi qui, alle altre. Sì. Bravo, non capiva niente di calcio. Quest'anno non vediamo niente, sono tutti confusi in mezzo al campo. Non piace neanche a tua moglie la Juventus. Caso mai ci volesse un po' di pazienza, no? Forse ha ragione Oreggia, però cioè, ogni partita abbiamo una squadra diversa, non abbiamo giocatori di terza categoria, abbiamo dei campioni internazionali, dobbiamo stare lì come abbiamo sempre stato lì, capisci? Eravamo sempre un rullo compressore e quest'anno non so neanche cosa ci definiamo, non so. Pier, mi dispiace. vediamo se Juve, ci sei, eccoci. La Juve è sicuramente partita d'handicap, secondo me non è ancora completamente fuori dai giochi, anche se è difficile. Io penso che il terzo posto sia il traguardo, sia un traguardo ancora possibile, e poi bisognerà, dipenderà molto anche dalle altre. Ieri ha giocato una partita, appunto dipenderà dalle altre. Ieri ha giocato una partita bruttina e l'ha vinta. Anzi, ha giocato in un certo momento nel secondo tempo una partita pessima a livello proprio di collegamento fra le parti e di ordine tattico. Ha giocato, secondo me, una delle peggiori partite della stagione, meglio a Sassuolo nel secondo tempo che ieri nel derby nel secondo tempo. Poi Allegri ha fatto una mossa intelligente, l'ha fatta secondo me più dal punto di vista difensivo perché stava soffrendo, però con questa mossa poi ha vinto la partita e bisogna dargliene atto, perché togliere una punta, mettere un Alexandro, spostare Pogba qualche metro più avanti, significava ovviamente soffrire di meno, e poi guarda caso dalla combinazione Alexandro Quadrado è nato il gol del 2-1. Io ieri ho fatto un esperimento sociologico, finita la partita ho chiesto ai tifosi juventini via Twitter se era fortuna o una mossa studiata, e tre quarti mi hanno risposto fortuna. Ho l'impressione che Allegri continui a non essere amato a Torino, malgrado la finale dell'anno scorso. Quando Allegri fa bene è fortunato. Ma ho l'impressione che quel rapporto lì non sia cementato. Aspettate che c'è il traffico, però siamo in ritardo di un minuto, c'è il traffico. Tira secco di Florenzi, Andanovic, Salah, Andanovic due volte, tre volte, quattro volte, incredibile! Andanovic, quattro parate, eccezionale. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Allora, scrive un amico fiorentino, immagino, al 349-238-6666, dite di fermarsi all'Inter per analizzare la vetta della classifica quando la Fiorentina ha battuto l'Inter 4-1 e ha segnato anche il doppio dei gol. Ha ragione, cioè, dal punto di vista tecnico ha ragione. Io continuo a pensare che la Fiorentina, e stiamo ragionando su potenziali candidate per lo scudetto, non faccia parte di quel gruppo, quindi intendevo questo dicendo fermiamoci all'Inter ragionando sul distacco di punti. Siamo già pronti, perché di telefonate come questa da domani ne riceveremo 4 al giorno. Tonnellate. Allora, a parte che, voglio dire, Firenze, lo dico a costo di scontentare gli altri, per me è una delle trasferte più belle del campionato, quindi faccio un discorso proprio di piacere individuale nell'andare a Firenze, mi piace da morire, quindi proprio non c'è nulla contro la Fiorentina. No, il discorso l'abbiamo fatto mille volte, a livello di spazio, a livello di televisioni nazionali, radio nazionali e quotidiani nazionali, ovviamente ci sono bacini d'utenza, quindi Firenze non è Milano, Firenze non è Roma e non è neanche Napoli. Questo lo dico così in maniera molto brutale, ma molto onesta, quindi ha ragione l'ascoltatore quando dice che si parla meno in generale, complessivamente, della Fiorentina rispetto ad altre squadre. Se poi se ne parla male apposta, ma questo non è il caso, questa è la patologia, ma non è questo il caso, no? Stiamo dicendo benissimo che la Fiorentina è forte, io non so se sia inferiore all'Inter, onestamente. Secondo me Fiorentina e Inter sono due outsider nell'idea che mi sono fatto in testa. Credo che il Napoli sia il grande favorito di questo campionato, con la Roma subito dietro, questa è la mia percezione, con la Juve che è un grande punto interrogativo, e poi con tre squadre che sono Inter, Lazio e Fiorentina, che secondo me sono lì, molto diverse. È ovvio che la Fiorentina è più bella dell'Inter, lo dico all'amico Fernando, la Fiorentina in questo momento è più bella dell'Inter, in maniera molto più divertente. Noi stiamo facendo una valutazione da qui a maggio, una proiezione. Adesso comunque vi do un'ulteriore al di là del fatto che sono, ovviamente, se la Fiorentina domani ci considera qualcuno per Tiki-Taka saremo strafelici, ma ovviamente le società hanno le loro strategie, molto banalmente anche i calciatori che hanno gli impegni, partono, hanno gli aerei, il giorno libero, se non è facile, non è semplicissimo, però vi assicuro che la mia intenzione domani è avere una cosa, quindi spero di riuscire poi domani sera. Adesso comunque vado a prendere il gennaio, che sto andando a prendere. Va bene, intanto noi sentiamo Massimo anche sulla viola. Intanto noi sentiamo Massimo dalla provincia di Rimini. Massimo. Buonasera, sono Massimo, chiamo da Riccione, sono tifoso juventino. Io sinceramente la Juventus c'è ancora 8-9 punti da coprire, però per la zona UEFA, la zona Champions ancora le partite sono tante e si può mettere in strada. Però ieri noi abbiamo visto un cambio nello schieramento della Juventus, una deviazione, cioè Hernanes era stato preso per sostituire Marchisio che si era fatto male. Ieri hanno giocato Marchisio e Hernanes insieme. Marchisio è ritornato a fare il suo ruolo naturale che ha fatto sempre da quando era ragazzino che giocava nella Juventus. Pare che Hernanes è stato preso a fare trequartista. Hernanes ha preso il ruolo di Pirlo praticamente, e sinceramente a me non mi è dispiaciuto come hanno giocato a centrocampo. È logico che gli si è fatto male, che dire, subito ha dovuto uscire, è entrato un altro che ha caratteristiche molto diverse da quelle di Khedira. Però sinceramente con questa svolta a centrocampo, sinceramente la Juventus a me mi è piaciuta molto a centrocampo. Dopo l'attacco devono fare più gol, sì, e la difesa ieri ha lasciato a desiderare parecchio, però sinceramente è logico che tutte le cose belle non cominciano tutte in una volta, però magari un po' meglio del 12° posto, Massimo, perché però guarda, non sono molto d'accordo con Massimo sulla prestazione di ieri, che è una prestazione. Allegri ieri ha detto una cosa importantissima, ha detto che lo scorso, la vittoria all'ultimo minuto nel derby col gol di Pirlo, fu l'inizio della svolta. In realtà, oltre che l'inizio della svolta, fu l'inizio da lì a poco della crisi della Roma, che quella sera vinse contro l'Inter, ma che un mese dopo cominciò a impantanarsi. È chiaro che la vittoria di ieri ha dei risvolti psicologici enormi per la Juve, quindi può essere veramente la vittoria della svolta, e la Juve è una squadra che fa paura ancora a tutte le altre, perché ha delle qualità enormi. Ieri per me ha giocato secondo me un po' pessimo tra di tutta la stagione, concedendo una quantità di occasioni al Torino abbastanza clamorose, con delle fragilità in campo veramente veramente importanti. Secondo me meglio il secondo tempo di Sassuolo, considerando che era 10-11. Poi, e questo comunque va apprezzato, c'è stata la capacità di non mollare mai, c'è stato alla fine un atteggiamento di paura del Torino che la Juve l'ha sfruttato prima con la partita di Bonucci e poi con gol 2-1. Quindi io credo che sia una vittoria che vale 6 punti dal punto di vista psicologico, una vittoria importantissima dal punto di vista psicologico. Abbiamo detto tante volte che la Juventus aveva, a me non è piaciuta dopo Sassuolo, dopo Reggio Emilia, la Juventus aveva due montagne davanti, una era questa e l'altra la trasferta in Germania di Champions League, quindi sconfitta, con polemiche, con le sassate di Buffon, con Evra che rincara la dose, con il ritiro, eccetera eccetera. Cioè ieri era una partita delicatissima per la Juve, era la prima delle due montagne da scalare, e in qualche modo l'ha portata a casa. Esatto, poi nel calcio il risultato fa opinione, come il calcio è uno sport di episodi. A portieri invertiti, probabilmente ieri la Juve non avrebbe vinto il derby. Sì, e c'è chi scrive che l'Inter non avrebbe vinto. Ecco, non avrebbe vinto. Aspetta che lo chiediamo ad Alberto Zaccheroni, che saluto, mister. Buonasera. Buonasera. Salve, buonasera a voi. È vero che al portieri invertiti le due partite di ieri sera sarebbero finite diversamente? Juve Toro, Inter Roma? Ma non si può dire. Non si può dire, perché poi dopo ci sono i portieri che vengono magari in un'occasione, vengono messi più sotto pressione e quindi cambia l'attenzione, cambiano tante cose. No, io devo dire che io mi sono divertito a vedere queste partite, belle intense, in particolare quella della Juve col Toro, no? L'altra c'è. Juve Toro, la prima mezz'ora, il Toro a parte i primi minuti, poi ha lasciato la partita alla Juve, l'ha fatto solamente la Juve. E poi però nel secondo tempo ha rischiato. A me è piaciuto molto perché hanno cercato tutte e due di vincere, a modo loro, ma entrambi hanno cercato di vincere. La partita dopo, la partita l'ha fatta la Roma. Le occasioni le ha create maggiormente la Roma, l'Inter ha giocato da par suo, ha costruito una squadra cinica, una squadra molto robusta che concede poco, che prende pochi gol, e adesso ha questo grandissimo merito, perché non è un demerito, che con poco riuscire sempre a portare a casa, con pochissime occasioni riuscire a portare a casa l'intera posta. Ha ragione Mancini a dire chi se ne frega delle critiche del bel gioco, no, degli 1-0 e di tutto il resto. No, ma io volevo chiedere una cosa, mister, una sull'Inter, cioè sulla Roma e l'altra sul Napoli. Quella sulla Roma è questa: se però basta un cambio tattico per mettere in difficoltà e far perdere una squadra come quella di Garcia, vuol dire che qualche problema c'è. Primo. E secondo punto, alla Roma. I cambi tattici Mancini con Jovetic falso 9, con la Roma che non aveva punti di riferimento, con questa formazione che nessuno si aspettava all'inizio. Se basta questo comunque per mettere in difficoltà le certezze della Roma, qualche problema c'è? No, beh, io non sono d'accordo che basti che basta quello. La Roma le occasioni le ha avute. Se l'analisi la facciamo partendo dall'effetto, quindi dal risultato, è chiaro che è così. Ma se l'analisi la facciamo sulla causa che ha portato a quel risultato, non è così. La Roma non è andata in difficoltà per quello, secondo me. È chiaro che i difensori si sono dovuti assumere maggiormente la responsabilità di iniziare l'azione, ma questo sarebbe accaduto anche con Icardi, anzi forse meglio ancora, perché Icardi la fase difensiva la fa forse meno di Jovetic, no? E quindi questi due centrali dovevano, essendo l'Inter rintanata nella propria metà campo, erano costretti a prendere l'iniziativa. Ma io credo che il problema della Roma sia stato che troppi giocatori non sono entrati in partita come fanno solitamente. Parlo di Florenzi, parlo di Maicon, le fasce hanno lavorato decisamente molto poco. Una forza della Roma sono le catene sulle fasce laterali, e questo ieri non è caduto. Sì, ieri sono rimasti abbastanza bloccati. Poi Dzeko non è riuscito ad entrare in partita come ci si aspettava, e la Roma gioca molto su questo giocatore, avendo Sala e Gervinio sempre raddoppiati, sempre in difficoltà perché avevano pochissimo spazio, perché l'Inter si è raccolta tutta, ha chiuso tutto gli spazi, e questi sono due giocatori che hanno bisogno assolutamente di spazio. C'è un po' questo paradosso di Dzeko che con cui la Roma segna poco. Piera? Ma io ti dico che secondo me c'è un'altra cosa interessante dell'Inter che si lega alla partita della Roma di ieri. Il fatto che l'Inter soltanto contro la Fiorentina, se non sbaglio contro la Samp, è andata in vantaggio. E secondo me non è un dato interessante, è tutto un merito dell'Inter, non è che è una colpa adesso che da dare a Mancini il fatto che sono andati in vantaggio soltanto due volte. Però è un segnale, secondo me. Cioè, a me sembra una squadra che ieri Mancini l'ha dimostrato in maniera perfetta dal punto di vista tattico. Perfetta perché si mette lì, perché è solida, perché non fa errori. Ieri ha lasciato il pallino alla Roma e l'ha colpita. Penso che se la Roma fosse passata in vantaggio, ovviamente manca la controprova, sarebbe stata abbastanza complicata per l'Inter. E al di là della serata di anarchia, decisamente sotto tono di Inter-Fiorentina, era un po' quello che era successo quella sera lì. E se vogliamo anche a Genova, perché anche a Genova nel primo tempo l'Inter ha sbandato e ha rischiato di tutto, poi nel finale poteva anche vincere. Quindi secondo me grandi doti fisiche, grande acume da parte di Mancini, una squadra solida, tosta. È chiaro che dal punto di vista tecnico per me manca qualcosa. Abbiamo un minuto, poi dobbiamo andare in pausa. Riusciamo a chiedere a Zaccheroni se partecipa al nostro sondaggio, cioè se con oggi la Juve, con oggi e con ieri, quindi con Roma e Napoli, le due grandi favorite che in un certo senso bucano il weekend, possiamo considerare la Juve di nuovo in corsa per lo scudetto? Ma la Juve ha una qualità superiore come organico, non parlo degli 11 titolari, superiore a tutte le altre squadre. Sa leggere meglio la partita delle altre, è più completa. Quindi se c'è una squadra che è in grado di fare una grande rimonta in questo campionato, lo può fare solamente la Juve. E volevo concludere ritornando sull'Inter. L'Inter è stata costruita così, con dei mediani a centrocampo, quindi per proteggere molto la difesa e giocare di rimessa. Io ero a Bologna 7 giorni fa e il pallino l'ha lasciato al Bologna, voglio dire. Sì. È una strategia dell'Inter di quest'anno, lasciare fare la partita agli altri e poi cercare di colpirla nelle sue debolezze. Grazie Zaccheroni. Grazie mister. A grazie alla prossima. Voi, buonasera. Buonasera. Grazie Alberto Zaccheroni. È arrivato. Dopo lo sentiamo. Ci sarà anche GB Oliviero che oggi scrive quella cosa là su Mihajlovic, lo spogliatoio del Milan. Adesso però dobbiamo fermarci. Chiedo un minuto di pazienza a Ivano da Roma, Antonio da Caserta, 800 24 00 24. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati 800 24 00 24. A proposito della domenica delle esclusioni per punizione, mi fate sentire Sarri sull'esclusione di Insigne oggi a Marassi. Ma io qualche giorno fa a San Paolo ero incazzato con Mertens come con Insigne, quindi non avrei dovuto far giocare nessuno. In realtà ho visto Mertens durante la settimana un po' più brillante, Lorenzo dopo l'infortunio al ginocchio ha perso qualcosa a livello di brillantezza e ho deciso per Mertens, una scelta normale. Sarà, tanto poi quando è entrato Insigne il Napoli è stato decisamente più pericoloso anche oggi. 800 24 00 24. Antonio da Caserta. Antonio. Sì, eccoci. Allora, posso? Ci sono? Sì, sì, prego. Sì. No, beh, volevo manifestarvi il mio rammarico per un commento che ho sentito dallo studio. Sì. Commento a passarli al. Aspetta però perché ti sentiamo male. Lo recuperiamo Antonio da Caserta, lo recuperiamo. Ivano da Roma, Ivano. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Io vi ho ascoltato molto attentamente finora. Sì. Prendo un attimo argomento, tornando su Talecchio, avrei una domanda per voi giornalisti. Sì, ci fa piacere che ci sia anche per Luigi Pardo a questo proposito. Uh-huh. A chi giova, a cui prodes, chi ci guadagna a tenere o a mantenere Tavecchio alla presidenza? Perché io da sportivo, e penso di parlare a nome di molti radioascoltatori, non riesco a spiegarmi come una persona apparentemente, poi magari ha dei pregi che voi mi potete spiegare, ma apparentemente inadeguata, possa stare alla presidenza della federazione più potente dello sport italiano. Per ricordare, pagata anche con i soldi nostri, quindi... tutto, abbiamo tutto è la federazione più importante dello sport italiano, basta questo insomma per tratteggiare che cos'è la Federcalcio. Ivano, i soldi, bisogna dare dei soldi al presidente federale, ci vuole una figura, io sono d'accordissimo, l'ho detto sempre, che serve una figura di alto profilo, perché stiamo parlando di una federazione molto importante, ma questa figura di alto profilo però non può essere, non possiamo pensare che ci vada un manager che magari guadagna 500-700 mila euro o un capitale d'impresa o non lo so, ditemi voi chi. Cioè, questo qui è un incarico che essenzialmente è un incarico, diciamo così, per la gloria. Su Tavecchio non ne ho parlato prima perché non ero collegato, certamente sono irricevibili queste cose. Mi sembra per l'ennesima volta che ci sia insomma, diciamo, un clima contro di lui, chiunque ha una frase, una telefonata, un'intercettazione la tira fuori, per questo sia il clima. Sì, però, clima insomma, sì, però di frasi, no, frasi certo, imbarazzanti certo, per ascoltarle e per chi le ha dette. Chiaro che è imbarazzante. Al di là vale il discorso fatto per lo Tito Iovice. Allora, secondo me, da una parte c'è l'operato di Tavecchio come presidente federale, che secondo me fin qui male non ha fatto, ha fatto diverse cose, ci ha provato, eccetera. Però non è che si può ogni volta star qui a discutere, e una volta i negri, e una volta tipo ba, sinceramente non è imbarazzante, semplicemente questo, insomma, mi sembra che appunto ci sia questo clima da regolamento dei conti, poi che la figura non sia una figura adeguata per quelle che sono le nostre speranze, le nostre ambizioni, per il discorso dice giustamente Capuano che questa è una grande federazione, ci dovrebbe essere un grande uomo di sport, un grande italiano dovrebbe guidare, vista l'importanza che il calcio ha. Un grande italiano, un grande intellettuale italiano dovrebbe fare il presidente della federazione, un grande manager italiano dovrebbe fare questo, però cioè, non ci prendiamo in giro, cioè, il ruolo qual è? Che responsabilità ha? Quanto viene pagato? Cioè, bisogna anche riflettere su queste cose qui, no? Non si può pensare che appunto un grandissimo imprenditore lasci tutto per andare a fare il presidente della Federcalcio. Bisogna anche conoscere certe dinamiche, però sulla sostanza senza se senza ma la condanna è totale, per qualsiasi, tanto per essere chiari, non si può dire quello che è stato detto in quella telefonata. Sì, sì, sì. Sono assolutamente d'accordo, ripeto, senza se e senza ma. Aspetta che abbiamo recuperato Antonio da Caserta. Antonio, sì, io vediamo se qua. Va meglio. Vediamo, non si sentiva prima, prego. Beh, adesso va bene, no? Io volevo manifestarvi il mio rammarico per un commento che ho sentito fare da un giornalista del quale mi è sfuggito sì. il nome. Sarò io. Sul commento fatto da Sarli per il rigore mancato. Sì. Voglio dire, anziché portare l'attenzione sull'episodio del quale non ha voluto proprio parlare, questo già mi pare che sia una cosa da considerare. Ce l'abbiamo col Napoli, hai ragione, no, Antonio. Io non so dire. Ha detto la rigore espulsione. Non danno mai rigori, ha detto lui. No, non ha detto questo, ha detto un'altra cosa. Ha detto un'altra senza cosa fare una polemica becera da discorso. E quindi senza parlare dell'episodio ha detto che c'è un dato statistico che è incoerente. Questo è un dato oggettivo, non soggettivo, nel quale praticamente un giornalista che naturalmente ha la statistica, non è che se la mette sotto i piedi, dovrebbe tener conto. Lui ha solo detto, e lui che è una persona modesta, una persona corretta, una persona che si sottrae ad ogni tipo di polemica, sì, in punto di fatto accade anche questo. Sì, però Antonio, noi abbiamo detto semplicemente che diffidiamo dagli allenatori che citano queste statistiche e poi subito dopo dicono speriamo che a breve che ci vada meglio, arrivi la compensazione. La statistica chiaramente questo, è riferita all'episodio. Poi il rigore c'era, l'abbiamo detto, il rigore c'era, magari non l'espulsione, ma il rigore però c'era. Non facciamo finta di fare Alice il paese delle meraviglie. Allora Sarri è chiaro che ha citato la statistica in relazione a quell'episodio, non è che l'ha citata così per caso. Ma certo, io lo ribadisco, ho fatto la battuta, ho detto sta diventando un allenatore della grande squadra, abituato alla grande piazza, alle grandi pressioni, ma lo dico perché questi giochini di pressione li fanno tutti. Ci sono anche dei maestri molto più talentati di Sarri. Sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che non è che abbia detto niente di clamoroso. Volendo ha detto anche una cosa abbastanza, l'ha detta con eleganza, non è che si è messo lì e si è scagliato e ha fatto 10 minuti di filippica sul rigore. Quindi su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, però non è che non ha voluto far polemica. Ha voluto lanciare un messaggio. Speriamo che qualcosa ci torni indietro, ha detto, no? Siamo gente di mondo, questo no? L'abbiamo capito tutti. Ecco, a proposito di allenatori che si misurano con le grandi squadre, adesso parliamo di un altro, me lo fate sentire ieri, un altro che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Chi è? Dopo la partita con Chievo ho letto alcuni giudizi negativi. Quando queste critiche diventano anche offensive, allora non ci sto, perché io penso di darvi rispetto e richiedo rispetto. Perciò parole sono importanti e devono essere usate in maniera migliore. Accetto le critiche sempre, ma se sono falsità o esagerazioni non ci sto, non sto qua e non sto qua aspettando che qualcuno offende me o offende i miei giocatori, specialmente qualcuno che non capisce nulla di calcio o che lo fa in malafede. Questo non ci sto. A parte che noi siamo sempre del partito della trasparenza, per cui se Sinisa avesse detto nomi e cognomi di chi in malafede dice, scrive falsità, saremmo tutti più contenti. Oggi magari chiameremmo il protagonista. Ma anche per abbiamo chiamato GB Oliviero, che non ha scritto, credo, no, falsità. GB, ciao GB. Ciao a tutti, ma avete chiamato la persona giusta, perché sono io il destinatario. Sei tu. Di questa. Ma noi ti avevamo chiamato per un altro motivo, invece visto, siete stati bravissimi, perché non sapendolo avete chiamato la persona giusta. Perché a me incuriosiva cosa hai scritto oggi. Cosa hai scritto oggi? Quello incuriosiva, che hai scritto che lo spogliatoio se l'hai un po' presa anche ieri per un'altra frase detta da Mihajlovic sui piedi storti al momento di fare i cross. Perché i giocatori cominciano a essere un po' stufi di vedersi, come dire, scaricate addosso tutte le responsabilità delle sconfitte o delle brutte prestazioni del Milan, perché è stata una brutta prestazione anche quella che coincide con la vittoria contro il Chievo. Quindi comunque evidentemente c'è qualcosa che non funziona, Mihajlovic è un po' nervoso e è bello che dire accetto le critiche, ma in pratica non le accetto, perché poi è questo quello che è venuto fuori dalla sue frasi di ieri in conferenza. Comunque effettivamente avete ragione voi, avrebbe dovuto fare nomi e cognomi, poi comunque. Ma si è arrabbiato per cosa in particolare? Ma in particolare per la pagella, per con me, diciamo, per la pagella di Milan-Chievo e per altri che dicevano commenti che non ha gradito, e poi in assoluto non lo so e mi interessa anche relativamente, sinceramente. Invece è più interessante capire questa spaccatura, se vogliamo chiamarla così, che c'è nello spogliatoio. Io mi viene in mente adesso, Mihajlovic ha iniziato in questa maniera la stagione, poi dopo le cose hanno cominciato ad andare male, c'è stata l'esclusione di Diego Lopez, però aveva un po' abbassato i toni nei confronti dei commenti anche per i calciatori. Arrivano le due vittorie consecutive e torna fuori il problema, GB. Sì, perché comunque la squadra non risponde come vorrebbe lui, o comunque non fa vedere quei miglioramenti che sarebbe lecito attendersi. È chiaro che il Milan non può pensare di vincere lo scudetto, però sono stati loro, da Berlusconi fino a Mihajlovic stesso, a parlare di Champions come obiettivo possibile stagionale, e di conseguenza ovviamente le prime prestazioni, i primi risultati non fanno pensare che questo possa davvero poi essere l'obiettivo reale del Milan. Quindi c'è del nervosismo che nasce anche ovviamente dai 90 milioni spesi per giocatori che soltanto in parte, penso a Bacca in particolare, stanno dimostrando il loro valore. Romagnoli sta un po' crescendo, Bertolacci lo stiamo ancora aspettando, quindi è chiaro che ci sono state delle scelte fatte sul mercato che poi per il momento non hanno dato i risultati sperati. Insomma, una serie di cose che portano a questo nervosismo dell'allenatore che si è sfogato ieri, e chissà poi se stasera riuscirà poi a rasserenarsi con una buona prestazione. Sì, Pier, perché poi stasera in realtà il Milan si gioca tanto, perché è vero che c'è stata la mini striscia di vittorie, però è anche vero che è arrivata con determinate combinazioni anche di episodi all'interno delle partite. Quella di stasera è un esame vero, no Pier? Un attimo, siamo qui con i tizi globali di Roma, sì. Siamo orientati all'altezza dei parchetti, quindi 20 secondi sul Milan, sì. La partita Mihajlovic è comprensibilmente dal mondo. Aspetta, perché non si sente nulla. Allora, ti salutiamo e ti diamo appuntamento domani dopo il nulla, adesso sente meglio, non si sentiva nulla. Fermo, bello, vai. No, stavo dicendo, spero che adesso non mi faccia. Ecco, salutiamo. Grazie. Sì, aspetta. Sto in radio. Ecco, un momento. Momento verità, radio verità. Radio verità. Pardo con i vigili di Roma. No, perché ho un parcheggio per il C1, però qui siamo al B2, sì. Che mi pare più. Va bene. Chiusa questa parentesi. No, io penso che stasera sia la partita veramente dello sparito. La Lazio in casa, numeri alla mano, è una grandissima squadra. Cioè, fare il risultato stasera equivarrebbe inevitabilmente a un passaggio fondamentale, decisivo per il futuro di questa squadra. Le due vittorie che sono arrivate sono due vittorie, ovviamente, i famosi brodini, no? Come si diceva una volta. Mihajlovic è nervosissimo. Il rischio, nonostante queste due vittorie, che stasera ci possa essere un tonfo clamoroso, c'è, dell'aria c'è. Quindi, insomma, proprio siamo alla quiete prima della tempesta, positiva o negativa. Ma stasera, secondo me, succede qualcosa che o è la svolta e cambia la stagione del Milan, oppure ad un ulteriore passo indietro in questa continua serie di stop and go. Il nervosismo di Mihajlovic, secondo me, è un po' un tratto umano suo, tipico del personaggio, è un po' anche tutto diverso. È un po' che stasera si gioca tanto, tantissimo. Grazie Pier, buona partita. Ciao, ragazzi, a domani. Grazie Pier. Io chiedo ancora un minuto di pazienza a GB Oliviero. C'è il traffico, torniamo subito dopo. Sinisa, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo alla Juventus quest'anno? Perché comunque. Guarda, io. E poi. Già c'ho problemi a casa mia, penso pure a Juve. Sono problemi quelli che stanno dietro, penso come sono problemi quelli che stanno avanti. Penso che è sempre meglio stare avanti che dietro. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. La domanda è per GB Olivero, Gazzetta dello Sport. Al di là delle dichiarazioni, qual è la temperatura dei rapporti tra Berlusconi e Mihajlovic? È di calma apparente, nel senso che Berlusconi tra una battuta e l'altra ha fatto capire di non essere soddisfatto del lavoro fatto fino adesso, però è anche vero che comunque concede, anche grazie alle due vittorie casalinghe consecutive, ancora un po' di fiducia all'allenatore. È chiaro che non si può neanche pensare che il Milan continui a cambiare allenatore in corsa comunque con questa frequenza, quindi tutti si augurano tra Arcore e casa Milan di poter andare avanti con Mihajlovic, però dipenderà dai risultati. In questo momento, diciamo che rispetto all'inizio della stagione, quando la fiducia era massima, adesso siamo scesi più o meno intorno al 50% e vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane. Nel borsino della fiducia di Mihajlovic. Grazie GB. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie GB Olivero, 20:45, Lazio-Milan, parliamo di rugby. Chiama K, ed è la H che hanno fatto i neozelandesi prima della finale contro l'Australia, secondo titolo mondiale consecutivo, primo conquistato fuori dalla patria, la Nuova Zelanda, terzo complessivo. Diego Dominguez, ciao. Ciao Diego. Ciao, ciao. Sono i più forti di sempre. Io gira una domanda: se gli All Blacks, che hanno perso credo 3 partite nelle ultime 54-55 giocate, siano la squadra più forte di tutti i tempi, ma non nel rugby intendo, cioè in assoluto, nella storia dello sport, è certamente il paese dove il rugby è il più forte al mondo. Hanno la miglior formazione al mondo, i migliori giocatori al mondo escono sempre da in quantità, ti parlo, qualche volta qualche australiano, qualche sudafricano, qualche inglese, qualche galese, ma sono spunti. In Nuova Zelanda proprio ogni anno ci sono 50, 60, 70, 80 giocatori nuovi che arrivano in prima divisione, uno meglio dell'altro. Per quello che, quando tu vedi il capitano della Nuova Zelanda, Mako, 148 partite, ha conservato per 148 partite la maglia numero 7 degli All Blacks, è quasi impossibile. Sì, una leggenda. Saluto anche Giacomo Bagnasco. Ciao, ciao Giacomo. Giacomo. Buona serata a tutti. Rispondi anche tu a questa domanda, cioè se gli All Blacks con questi numeri straordinari sono la squadra più forte che lo sport abbia espresso in assoluto. Io sono d'accordissimo. Io so che con siete Diego. Innamorati degli All Blacks, siamo no, tutti innamorati, infatti, degli All Blacks, infatti, però io penso cerchiamo che, di essere razionali. Ecco, se vogliamo essere razionali, un confronto non è un esercizio logicamente possibile. Detto questo, nessun'altra nazionale era riuscita a vincere 2 coppe del mondo consecutive. McCoe e Carter hanno i record assoluti di presenze e di punti segnati nei match internazionali. E quindi questi sono dati di fatto. Un altro dato di fatto, nel senso che penso che non ci siano discussioni, è che la finale di ieri, nelle 8 in cui disputate dall'87 a oggi, è la più bella in assoluto, non la più emozionante, perché ci sono stati i tempi supplementari nel 95 quando vinse il Sudafrica di Mandela, mi verrebbe da dire, che di Inar, e nel 2003 quando vinse l'Inghilterra di Wilkinson. Però la più bella, con una gemma strepitosa che è stata la prima meta, quando Aaron e Conrad Smith si sono passati l'ovale per 3 volte. Il primo ha fatto un raddoppio, cioè è stato un incrocio. Sì, è stata l'essenza del rugby, esatto. Straordinario. Mondiale perfetto quello degli All Blacks, Diego. Mondiale perfetto. Fa sembrare tutto facile. Sì, partiti così e sono poi cresciuti nel corso del torneo fino ad arrivare all'apice che è stato quello di ieri. Sì, totalmente, l'hanno meritato questa Coppa del Mondo. Dicevamo, sai, all'inizio partivano, come l'hai detto, piano, qualche errore di troppo che dagli All Blacks non te li aspetti, ma hanno fatto un turnover enorme, hanno giocato tutta la squadra ha giocato tutta, ma poi quando sono arrivate le partite, le grosse partite, quarti finali, semifinali, e finali, non c'era più niente per nessuno. Ieri contro l'Australia la partita era dominata, era quasi finita. Ricordiamo che 14 punti che fa l'Australia le fa con un cartellino giallo della Nuova Zelanda, erano in 14 la Nuova Zelanda, se no con i 14 punti non le fanno mai. Sì, vero. Però sono stati strepitosi ieri sera, ma ripeto, è stato l'apice di un lavoro con il turnover che ha portato gli All Blacks a giocare questa partita. La panchina è la più forte panchina. Ogni giocatore che entrava in panchina era meglio di quello che usciva, sì. e dava qualcosa in più. Questa è la cosa forte: quando tu fai entrare qualcuno dalla panchina, deve dare un valore aggiunto, dare qualcosa in più di quello che esce, perché se tu fai entrare uno, quello che ti esce è stanco e questo ti dà meno. Non va bene. Invece a Nuova Zelanda ogni giocatore che entrava faceva meglio. Sì, ma non, sì, è che, non è che Dan Carter e McCo, no, adesso che smettono, hanno un nonno italiano, uno zio italiano. No, no, credo di no. Il che toglie speranze a noi, toglie credo speranze anche agli altri in vista del prossimo appuntamento, dove la Nuova Zelanda cercherà. Sicuramente credo Giacomo, no? Gioca per la tripletta, deve aprire un nuovo ciclo, ma sicuro. Se queste sono le basi di partenza. Sicuro, è un ciclo che si deve aprire in una nazione per la prima volta, il mondiale si disputerà in Giappone, una nazione che non è una grande nazione di rugby, il Giappone, però ha fatto molti progressi. Per quanto riguarda i 14 punti dell'Australia a cui faceva accenno Diego, io direi che vanno a merito dell'Australia, che ha dimostrato di essere in partita fino all'ultimo, e in un certo senso anche della Nuova Zelanda, che aveva un'organizzazione di gioco tale per cui è bastato un ingranaggio che veniva meno per non poter contrastare nello stesso modo gli australiani. Fatto sta che poi la Nuova Zelanda è stata superiore anche di turnover, ha rubato tanti palloni in attacco proprio dove doveva esprimersi al massimo la specialità australiana. Io volevo chiedere a Diego qualcosa. Sì, abbiamo meno di un minuto, così poi l'Argentina, che è stata comunque una magnifica squadra. L'Argentina ha fatto una grandissima Coppa del Mondo. Noi eravamo abituati ad una squadra argentina mischia difesa, calci alti e occupazione del campo, invece adesso ci hanno sorpreso, un'Argentina che ha già giocato con una dinamica, con un gioco di velocità di passaggi, velocità di spostamento dei giocatori molto molto sorprendente e molto efficace, tale vero che la Nuova Zelanda, l'unica squadra che ha messo veramente in difficoltà la Nuova Zelanda, è stata l'Argentina il primo tempo della prima partita in questa Coppa del Mondo. Possiamo dirlo che l'Argentina è stata quello che pensavamo, sognavamo negli anni scorsi di diventare noi, e che invece per il momento non siamo diventati, ma c'è sempre tempo per diventare grandi. Grazie Giacomo Bagnasco. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a voi. Ciao Giacomo, grazie anche Diego Dominguez. Ciao, grazie. Diego, noi ci fermiamo qui. Tutti Convocati torna domani dopo il GR delle 14, oppure domenica prossima dalle 17 alle 19. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani e Paolo Corleone in regia. C'è stato anche Andrew Mercou, sì. È stato anche il grande Andrew Mercou, Arrigo Sacchi. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao. Ma a livello grazie, arrivederci a tutti, grazie. Ma che fretta! Ciao Roberto. Deve scappare.